Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 6 minuti. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Una giornata, quella di oggi, che vede i mercati al momento positivi, almeno per quanto riguarda Milano, un più 0,17% sul FTSE MIB. Un più 0,06% su FTSE All Share dopo una mattinata in realtà piuttosto negativa sulla scorta di parole arrivate dal presidente della Bundesbank Weidmann. Parole pubblicate sul sito della Bundesbank in occasione del 55esimo anniversario della nascita della banca, che è la banca centrale tedesca, lo ricordiamo, e che hanno chiuso a qualsiasi ipotesi di intervento della Banca Centrale Europea. Insomma, pensatene una tra tutte quelle che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Ebbene, qualsiasi pensiate, Weidmann ha chiuso. Dall'altra parte è arrivata notizia anche dalla Bundesbank che questa intervista era stata fatta qualche tempo fa, è programmata qualche tempo fa, quindi forse i mercati da questo lato ci hanno ripensato, approfondiremo più avanti, e non hanno visto queste parole così nettamente in contrasto con la volontà di intervento di Mario Draghi. Vi raccomando naturalmente su questo anche la puntata di domani, perché domani ci sarà questa famosa riunione del direttivo della BCE e vedremo finalmente quali armi tirerà fuori dall'arsenale la Banca Centrale Europea per tranquillizzare i mercati e calmare gli spread. Questo dal lato dei mercati, una giornata tutto sommato abbastanza tranquilla anche sul fronte dei titoli di Stato, se considerate che appunto lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, è rimasto sostanzialmente stabile. Adesso appena arriva riusciremo a darvi il dato, ecco, anzi in realtà in calo abbastanza netto a 454 punti, quindi buone notizie da questo lato. Ovviamente parleremo di mercati, parleremo di agenda italiana, di agenda di governo e di Parlamento italiano. Come sapete sta arrivando l'appello del nuovo patto per l'Italia, l'Europa e l'euro, lanciato dal mondo delle imprese, ancora una volta con una voce sola. E poi parleremo di due fatti, di due vicende finanziarie. Il primo è un vero e proprio fatto, un fatto legislativo, l'introduzione di questa Tobin Tax, di questa tassa sulle transazioni finanziarie, anche se piuttosto ristretta nell'ambito di applicazione, varata dalla Francia, sulla quale si appuntano molte critiche. E poi torneremo sulle vicende Euribor e l'Aibor, e quindi su questi scandali finanziari che stanno colpendo il mondo bancario, che stanno in parte avendo anche un impatto sui conti delle banche, qualcosa che accennavamo ieri. 349-238-6666 è come sempre il numero per intervenire in diretta via SMS. Le notizie in breve di oggi. Poco mosse le quotazioni dell'oro a 1614,7 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio c'è stata un'apertura e anche una prosecuzione di seduta in rialzo, almeno per quanto riguarda il Brent, quello quotato a Londra, dello 0,71% a 105,6 dollari al barile, mentre è in lieve calo il WTI, quello a New York, ma anche qua veramente poco mosso, meno 0,06 a 88,01 dollari al barile. Parliamo del petrolio con consegna a settembre. A proposito di petrolio, ci sono i conti oggi di Eni. Nel primo semestre ha messo a segno un utile netto di 3,94 miliardi di euro con un progresso dell'8%, nel secondo trimestre l'utile è stato di 1,46 miliardi di euro, più 2%. E nel frattempo, a proposito di energia, è stata completamente ripristinata l'elettricità in India dopo il gigantesco blackout che ha colpito il paese. Ancora l'Europa, una messe di dichiarazioni anche oggi, oltre a quelle della Bundesbank. Tra le altre cose, Weidmann dice la Banca Centrale Europea non deve oltrepassare il suo mandato. E però il governo tedesco dice di essere pronto a fare tutto per salvare l'eurozona, ma entro i limiti di quanto è autorizzato dai trattati. Come vedete, dichiarazioni parallele, ma alcune con un'area di apertura, quelle del governo tedesco, e alcune con un'area di chiusura, quelle della Bundesbank. Altre parole, quelle del presidente del Consiglio Mario Monti, la questione della licenza bancaria all'ISM, il fondo salva stati. Questione della licenza bancaria che è importante più che altro per garantire una maggiore operatività all'ISM, una maggiore rapidità di intervento, insomma la possibilità di finanziarsi direttamente presso la BCE. Dice Monti che credo che dare la licenza bancaria all'ISM aiuterebbe e credo che questo a tempo debito succederà. E c'è anche quella che noi leggiamo, forse sbagliando, come una bottarella proprio alla Bundesbank. Dice, mi auguro, dice Monti, che tutti i componenti nel sistema europeo e delle banche centrali abbiano lo stesso rispetto per l'indipendenza della BCE che hanno i governi. Come a dire, tocca anche alla Bundesbank rispettare l'indipendenza della BCE. Se i mercati sono lenti, aggiunge Monti, forse all'Italia servirà lo scudo antispread, dipende dalla lentezza con la quale i mercati comprendono gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti. E se ci fosse una migliore governance per la stabilità del mercato del debito, così come deciso al vertice europeo, allora l'Italia sarà aiutata de facto, dice Monti. Tutto questo durante un incontro ad Helsinki col premier finlandese Katainen, il quale dice i paesi devono proseguire sulla strada delle riforme intraprese, ma serve anche una soluzione europea che dia il tempo ai mercati di valutare i progressi fatti dai governi. E ci sembrano dichiarazioni, a dire la verità, abbastanza morbide rispetto a quello che abbiamo sentito dai finlandesi nei giorni scorsi. L'agenzia Standard & Poor's intanto conferma il rating della Spagna, BBB+, le prospettive rimangono negative. Nel rapporto l'agenzia cita l'impegno forte del governo sull'attuazione dell'agenda su riforme fiscali e strutturali. E veniamo all'Italia con la vicenda dell'Ilva. Questa mattina informativa alla Camera del Ministro dell'Ambiente sulla vicenda appunto dell'Ilva di Taranto. Domani il Ministro sarà a Bari per partecipare ad una riunione convocata per fare il punto della situazione. Vi ricordiamo ancora una volta che venerdì ci sarà la decisione del riesame sul sequestro degli impianti dell'Ilva di Taranto. Non ho nulla da dire sull'iniziativa della magistratura, dice Crini, ma ora lavoriamo per rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e la responsabilità delle imprese a rispettare le leggi. E ancora, la situazione dell'Ilva ha evidenti impatti ambientali e probabili impatti sulla salute che vanno messi in relazione alle normative del tempo e alle autorizzazioni del tempo ricevute dagli impianti, come è accaduto per tutti gli impianti del genere in Europa. Le parole di Crini. Lo stabilimento è stato progressivamente autorizzato nelle sue diverse fasi anche di aggiornamento tecnologico, di aggiornamento produttivo, secondo le leggi vigenti. Per cui una parte delle problematiche rilevate danno conto di uno stato della salute della popolazione con anche evidenti eccessi di mortalità che fanno riferimento presumibilmente a contaminazioni ambientali derivanti da impianti che a quel tempo operavano nel rispetto delle leggi. Siamo in presenza di una situazione che ha avuto nel tempo evidenti impatti ambientali e probabili impatti sulla salute, che vanno però messi in relazione alle normative del tempo e alle autorizzazioni che nel tempo gli impianti hanno ricevuto. Così è un po' eccessivo, ci scrivete al 349-238-6666. Il germanico è pericoloso come in tutta la storia, li vinceremo anche questa volta, ma con le macerie come sempre, insomma, mi sembra un po' troppo. Ma comunque speriamo di no, ecco. Ci chiedete invece dell'aumento di capitale di Fondiaria, sai, c'è ovviamente, ne accenniamo per gli spazi che sono concessi all'interno di questa trasmissione, come sempre nello spazio dedicato ai mercati. Vi dico però che domani si occuperà di questo la puntata di Salvadanaio, in onda dopo il GR delle 12, quindi se siete interessati a capire anche cosa succede, se avete azioni in portafoglio, quello è lo spazio giusto. Veniamo al primo tema di questa giornata, ed è il mondo delle imprese che lancia un nuovo patto per l'Italia, l'Europa e l'euro, un appello al governo e ai partiti. Mondo delle imprese, quindi Confindustria, le banche collabili, le imprese assicurative dell'ANIA, le PMI, le piccole e medie imprese di Rete Imprese Italia, le COP con l'Alleanza delle Cooperative. Un gruppo di appunto di aziende, questo mondo delle imprese, che non è la prima volta che si mette insieme in questi mesi per comunicare le necessità, secondo la loro visione, per l'agenda del paese. È un testo in 10 punti che si rivolge anche all'Europa, ma vuole essere soprattutto di stimolo per i cosiddetti compiti a casa da fare in Italia. Devo dire, a me questa espressione non piace moltissimo, è questa storia dei compiti a casa, perché insomma è di conio tedesco, diciamo così. Saluto Guido Gentile, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Allora, stai là con noi e poi commenteremo, perché prima ci andiamo a sentire qualche voce di questa conferenza stampa che si è tenuta da poco, inviate dalla nostra collega Alessandra Schepisi. Dicono le imprese, tra le altre cose, non è più rinviabile una riforma della legge elettorale, e dicono non ci devono essere altri aumenti, e giù le tasse dalla spending review. Sentiamo il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, il quale dice che la direzione per quanto riguarda l'Europa deve essere quella appunto degli Stati Uniti d'Europa. Noi siamo europeisti, noi crediamo nell'Europa, noi crediamo che si debba andare nella direzione degli Stati Uniti d'Europa, che si devono evidentemente, per andare in questa direzione ci dobbiamo basare su, innanzitutto su un euro che sia solido. E per avere l'euro solido abbiamo necessità di una serie di condizioni condivise che in un in step successivi porterà certamente anche a abdicare a una parte delle nostre sovranità nazionali, ma che comunque risulta necessario, perché ormai la competizione a livello globale non si svolge più tra nazioni, ma si svolge tra grandi aree economiche. Sono convinto che noi dobbiamo sostenere, come ha detto Mario Draghi, senza esitazioni, senza nemmeno prendere in considerazione ipotesi alternative, l'esistenza dell'euro, perché intorno all'euro si costruisce l'Europa. Poi che per avere un euro forte intorno a cui costruire l'Europa servono tutta una serie di altre condizioni, questo è evidente, il nostro documento lo mette in evidenza, e poi sono poi essenzialmente 5: una banca centrale europea veramente con poteri di banca centrale e capace di gestire tutte le situazioni, con i poteri per gestire tutte le situazioni, un coordinamento delle politiche di welfare, delle politiche fiscali, delle politiche per le dotazioni infrastrutturali, sia materiali che immateriali, e le politiche energetiche. Ecco, mettendo a fattore comune questi 5 parametri, credo che veramente potremo costruire un euro forte, inattaccabile, e potremo andare con decisione nella direzione degli Stati Uniti d'Europa. Così Squinzi sul lato europeo. Arriva dal presidente di Confindustria anche un sostegno all'azione dell'esecutivo. Dobbiamo proseguire nella strada che è stata intrapresa dal governo Monti. Le imprese italiane incoraggiano il governo Monti a portare avanti la sua azione riformatrice, perché ci sono perché sicuramente poi al fondo di tutto la politica deve assumersi la responsabilità di perseguire, di realizzare tre obiettivi fondamentali, che sono il risanamento dello Stato, il ruolo che lo Stato deve avere e ritrovare la crescita. Per parlare di risanamento, credo che quello che si è fatto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, vada nella direzione giusta. Dobbiamo fare fronte agli impegni che si erano presi con l'Europa. Dobbiamo, partendo dalla spending review, la spending review che abbiamo visto in questa prima fase è sicuramente un primo passo nella direzione giusta. Dobbiamo comunque insistere, dobbiamo veramente rendere lo Stato più snello, capace di affrontare le sfide del futuro. E per fare questo dobbiamo quindi anche definire con tempestività un piano di dismissione e di valorizzazione degli asset pubblici. Così dice Giorgio Squinzi, che tra l'altro aggiunge: il paese non può sopportare ulteriori aumenti della pressione fiscale. Allora, con Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, che oggi sul quotidiano di oggi, dalle colonne del quotidiano di oggi, ammonisce l'emergenza non è finita, e anche questo atto piuttosto forte, e nuovamente forte, da parte dei soggetti datoriali italiani sembra confermarlo, Guido. Beh sì, la situazione sui mercati è ancora fluida. Aspettiamo domani le decisioni che prenderà il direttivo della Banca Centrale Europea, però chiaramente siamo in una crisi profonda. Il documento delle imprese mette giustamente l'accento sulle difficoltà che ha l'euro e sulla necessità di rafforzare questa moneta. La partita non è finita, in questo senso l'emergenza non è chiusa. Era stata usata poche settimane fa la parola guerra, e siamo ancora in tempi di guerra, purtroppo, quindi con una navigazione a vista rispetto a quelle che sono le prospettive del mercato, del livello degli spread, della situazione internazionale. Dobbiamo tirarci un po' fuori dai guai anche con le nostre forze, pur dovendo sapere realisticamente che molte delle cose da fare sono in Europa, sono a Bruxelles, oltre che appunto a Roma in Italia, per far questo appunto dobbiamo mettere in calendario l'agenda della crescita, e in questo senso credo che il richiamo alla insostenibile pressione fiscale sia giusto, e che si debbano trovare le risorse attraverso la revisione della spesa proprio in prospettiva per abbassare le tasse, altrimenti non avremo mai la crescita. Sì, Guido, in qualche modo lo accennavi anche tu. Il punto è questo, che ormai la soluzione dal lato dei mercati non è più in Italia, evidentemente, cioè per placare appunto i mercati ci vuole qualcosa di più sistemico e di più europeo, evidentemente. Dall'altra parte, questa appunto può essere fondamentalmente la buona occasione per riportare il paese, o per portarlo su una via che non percorre ormai da decenni. Esatto, questa è l'occasione, è un po' il vincolo esterno che si ripropone per noi e che a volte ci ha salvato negli anni passati, nei decenni passati, anche negli anni 70, con, ricordo, la polemica e al momento in cui furono chiesti aiuti sostanzialmente al Fondo Monetario Internazionale, al prestito del Fondo Monetario Internazionale. Quindi questa è l'occasione giusta per riprendere un cammino di crescita, evitando di fare gli errori tragici che sono stati fatti nel corso di questi decenni e che hanno portato alla formazione di questa montagna di debito pubblico. E questa non è colpa dell'Europa, non è colpa degli Stati Uniti, è colpa solo nostra se abbiamo accumulato 2.000 miliardi di debito pubblico che sono difficili ovviamente da sostenere e da finanziare. Questo è il primo dei problemi e non dobbiamo dimenticarcelo. Sì, c'è chi ci scrive al 349-238-6666 un ragionamento, devo dire la verità, in gran parte comprensibile se non addirittura condivisibile. Ci scrivono: ma con il fiscal compact, il pareggio di bilancio in Costituzione con manovre da 50 miliardi l'anno, perché tu tra l'altro scrivi, è inutile chiedersi se quella che arriva se la spendi in review o se i prossimi interventi sono manovre, perché siamo dentro una manovra continua praticamente da sostanzialmente da due anni o almeno da un anno. Dice: ma come faremo a crescere con queste condizioni? Questo mi sembra il vero problema, cioè l'impressione è di non avere più in mano le redini per riportare l'Italia sulla via della crescita. Beh, questo riporta da un lato sul piano dei principi alla questione della cessione delle sovranità nazionali alle quale stiamo assistendo e che in qualche modo è un processo inevitabili, però all'interno di quelli che sono gli obiettivi prefissati, quindi ricordavi tu il discorso del fiscal compact e dell'obiettivo del pareggio di bilancio che è stato messo appunto in Costituzione, all'interno di questo quadro la scommessa è proprio trovare le risorse per la crescita, perché altrimenti non riusciremo mai a uscire, diciamo, attraverso solo con le politiche di rigore da questa situazione in cui siamo, ricordiamolo, siamo in recessione e quindi solo dei provvedimenti diciamo di nuove strette fiscali porterebbero altra recessione. Dobbiamo trovare le risorse. Guido, un taglietto di tasse non ci starebbe male, diciamocelo. Ah beh, certo, un taglio dei tassi, tanto diciamo per rimanere ai fondamentali, diciamo, un taglio dei tassi non può che far... No, scusami, di tasse dico, no, non di tasse. Dicevo tassi, diciamo, rispetto alle decisioni di domani, che ovviamente potrebbe rientrare in una delle manovre più tradizionali, non basterebbe, ma comunque sarebbe un segnale importante da parte della BCE e qualche margine su questo terreno c'è. Per quanto riguarda le tasse, appunto, la crescita, non potremo mai arrivare a ritornare a crescere se non abbassiamo questa pressione fiscale, in particolare sul lavoro. Le risorse, siccome è facile l'obiezione, ma dove troviamo le risorse per far questo? Le risorse le troviamo in quel calderone di spesa pubblica che ormai ammonta a circa 800 miliardi di euro, in particolare quasi tutta, per la stragrande maggioranza, localizzata a livello di enti locali, e da qui il discorso anche della scommessa a settembre sui costi standard. Da questo calderone dobbiamo tirar fuori le risorse per abbassare le tasse sul lavoro e imprese, altrimenti la crescita non ci sarà. Questa è la scommessa vera che sta dietro il rispetto degli impegni con l'Europa. Speriamo che qualcuno se ne renda conto. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato grazie con noi. Buonasera Guido. Noi chiudiamo questo capitolo ascoltando altre parole. Abbiamo sentito il presidente di Confindustria Squinzi, sentiamo quello dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Giuseppe Mussari, sempre voce raccolta dalla nostra Alessandra Schepisi. Noi riteniamo che l'Italia, nonostante i significativi passi avanti sulla strada della stabilità dei conti pubblici e delle riforme e i fondamentali più solidi rispetto ad altri paesi, rischi di divenire per dimensione economica e peso specifico il punto di rottura dell'Unione Economica Europea, che l'Unione Economica Europea come sistema di paesi integrato presenta dati economici molto più solidi di quelli di altre realtà, ma che questa forza non si riesce ad esprimere per una serie di egoismi nazionali, che la crisi globale che attraversiamo è in parte aggravata dalla mancanza di coraggio e di visione politica, che il progetto europeo resta un progetto ambizioso e utile e che è stato straordinariamente utile per consentire di riunificare ciò che era diviso e di risolvere problemi di dimensione storica. Giusto un chiarimento, non abbiamo mai detto che il governo Monti abbia tagliato le tasse, abbiamo detto anzi che questo sarebbe il momento giusto per un bel taglio delle tasse. Ci dite di quanto? Francamente sono ricette che deve anche identificare un governo, deve decidere come orientarle, sui consumi tagliando le tasse sul lavoro, sulle imprese tagliando quindi le tasse sulla produzione. Dipende dalla ricetta che si sceglie. Certo è che una pressione fiscale al 55%, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi all'ufficio studi di Confcommercio, è evidentemente insostenibile. Ci dite anche lo sviluppo e quindi i tagli delle tasse non si fa solo con la spending review, ossia con la revisione della spesa, ma anche combattendo l'evasione fiscale. Vero, l'evasione fiscale va combattuta. Ci sono dei dubbi che la lotta all'evasione fiscale possa essere utilizzata proprio dal punto di vista delle regole in bilancio per un taglio delle tasse. Meglio utilizzare eventualmente appunto la revisione della spesa. Infine, la dichiarazione del presidente della Bundesbank, ci dite, è stata rilasciata un mese fa ed era sul sito. È vero, è stata rilasciata un mese fa e lo abbiamo detto, era di qualche mese fa, ma sul sito è stata rilasciata solamente oggi. La borsa. Eleonora Micheli, Radio Corri, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Sono state proprio le dichiarazioni di Weidmann e poi suppongo anche la precisazione sul fatto che in realtà risalgono ad un mese fa, quindi prima che Draghi esprimesse con così tanta energia la volontà di salvare l'euro, a condizionare i mercati nella giornata di oggi, non solo quello in realtà. Sì, c'è grande nervosismo ovviamente perché si attende questa sera la mossa della Federal Reserve e domani quella della BCE. Certo, in borsa circolano mille ipotesi, ieri ma anche oggi è circolata l'ipotesi che alla fine gli istituti centrali probabilmente rinvieranno qualsiasi decisione al prossimo settembre, chi lo sa. Ovviamente l'ipotesi è stata rafforzata non appena sul sito della Bundesbank sono comparse le dichiarazioni di Weidmann, tanto più che anche la scorsa settimana la banca centrale tedesca si era mostrata critica contro Mario Draghi il venerdì, ovvero il giorno successivo alle dichiarazioni del numero della BCE, del numero uno della BCE. Poi c'è ovviamente una serie di altri fattori, c'è Wall Street positiva, una serie di indicazioni positive da parte della società ha fatto oscillare più volte il listino che così ha chiuso in rialzo. Alla fine, e bene anche il rendimento dei titoli di Stato italiani, quelli a 10 anni al 5,93%, bene vuol dire in calo naturalmente, così come lo spread a 454 punti. Dunque si diceva FTSE MIB più 0,27%, FTSE All Share più 0,02% negativa, curiosamente Francoforte oggi in calo dello 0,26%, Parigi che guadagna un punto percentuale. Abbiamo due storie opposte sul FTSE MIB e due storie con rialzi, con un rialzo e una con un ribasso molto forte. Si tratta di Parmalat e Mediaset. Iniziamo dalla prima, quindi alle buone notizie, più 9,5% per Parmalat. Sì, Parmalat infatti si è distinta sin dalle prime battute, poi ha allungato il passo nel corso della giornata, si festeggia la semestrale che è risultata superiore alle attese, che ha visto salire i ricavi del 6,1% e l'utile del 7,8% a 82,5 milioni. Questo per quanto riguarda Parmalat, la storia opposta appunto a Mediaset, un calo del 10,8% oggi. Sì, oggi sono andate malissimo le azioni di Mediaset, sono arrivate a perdere peraltro oltre l'11%, d'altra parte la società ha accusato un calo dell'utile nel primo semestre del 73% a 43 milioni, ma inoltre fa paura la prospettiva per i mesi a venire e in effetti nel secondo trimestre la raccolta pubblicitaria è calata di oltre il 13%, ma soprattutto ieri nel corso della conference call i vertici del gruppo televisivo hanno indicato che la raccolta pubblicitaria sta andando male a luglio e anche le indicazioni di agosto sono poco rosee, si parla di un ribasso attorno al 20%, per settembre non c'è nessuna indicazione e quindi all'idea che le prospettive siano diciamo grigie ovviamente il titolo è precipitato. Tra l'altro appunto questo fatto che non ci sia assoluta visibilità per quanto riguarda settembre è abbastanza impressionante e tra l'altro Mediobanca dice che probabilmente quest'anno Mediaset dividendo non non lo darà. A proposito di titoli di aziende che hanno diffuso i conti, c'è Finmeccanica. Sì, anche in questo caso Finmeccanica è stata sotto i riflettori, le azioni hanno chiuso in calo dello 0,7%, ma in verità questa mattina andavano peggio. I ricavi del resto nel secondo trimestre sono calati di oltre il 6% e soprattutto è crollato l'utile, ma questo perché si confrontava con un risultato netto dell'anno scorso che era gonfiato dalla plusvalenza di Alsaldo. Piuttosto al mercato fa paura l'andamento del debito che è salito dell'11% oltre a 4,6 miliardi. E poi ovviamente si attendono le indicazioni sulle cessioni, ma anche oggi dall'audizione in Parlamento di Orsi non sono venute, diciamo, indicazioni dettagliate e precise. Ci chiedevano di tutto il pacchetto Lex, la famosa ex Galassia Ligresti, sia Fonsai che parliamo sia di Fonsai che di Unipol. Vi ricordo ancora una volta che domani approfondirà l'argomento Salvadanaio, dedicherà a questo tutta la puntata dopo il giornale radio di mezzogiorno. Com'è andata oggi? Oggi è una giornata importante perché era l'ultimo giorno, a questo punto possiamo usare il passato, per partecipare all'aumento di capitale delle due compagnie rispettivamente da 1,1 miliardi, una mossa propedeutica poi all'integrazione delle due compagnie assicurative. Andavano bene tutte e due, poi sul finale Fondiaria Sai ha chiuso in progresso dell'1%, attestandosi a 1,8 euro, per contro Unipol ha perso quota proprio sul finale, ha perso esattamente lo 0,2%. Semmai oggi va detto che è arrivata una notizia abbastanza importante che quindi ha chiuso definitivamente direi la partita, visto che il Consiglio di Stato ha detto no alla richiesta che avevano fatto Sator e Palladio, Sator il fondo di Matteo Arpe e Palladio l'alleato, di sospendere l'autorizzazione che aveva dato l'ISBAP praticamente a Finzoe, che è la controllante di Unipol, per procedere all'integrazione. Quindi a questo punto direi che il gioco è proprio chiuso. Infine Autogrill. Autogrill si è messa in evidenza sin da questa mattina, i titoli poi sul finale hanno in verità chiuso invariati, andavano meglio questa mattina, e questa mattina la società ha festeggiato che è riuscita a entrare nel mercato brasiliano, un mercato in crescita molto interessante, perché si è aggiudicata la gestione dei duty free dell'aeroporto internazionale di Belém. Grazie, grazie ad Eleonora Micheli di Radio Corre, il Sole 24 Ore, un quadro, ce lo chiedete giustamente, sui titoli migliori e peggiori di questa giornata. Mediaset si è detto meno 10,8%, Azimut giù dell'1,74%, la Popolare di Milano dell'1,26%, Ansaldo dello 0,96%, in pregilo dello 0,85%, Tenaris dello 0,7%, anche Eni ha diffuso la semestrale, ve ne abbiamo parlato poco fa, in calo dello 0,24%, anche Fiat Industrial meno 0,25%, Fiat in guadagno dello 0,15%. Come abbiamo raccontato ieri, i conti non sono andati un granché, si attendono comunque, dovrebbero arrivare a breve tra l'altro i dati sulle immatricolazioni intorno alle 18. Parmalat la migliore più 9,51%, Enel Green Power su del 4,5%, Mediolanum del 2,3%, Telecom Italia del 2,26%, Diasorin del 2,2%, l'automatica guadagna del 2%, Monte dei Paschi l'1,7%, Prismian l'1,6%, Exor 1,5% percentuale. Adesso noi cambiamo argomento e parliamo di Tobin Tax. Ci arrivano molte domande sulla patrimoniale della quale abbiamo parlato poco fa, o meglio mi sono permesso di dire speriamo che non la facciano. L'ho detto semplicemente per una serie di motivi. Il primo motivo è che la pressione fiscale mi sembra già piuttosto elevata. In secondo luogo perché è una tassa difficile da applicare, ne abbiamo parlato parecchio anche da questi microfoni. In terzo luogo, e quindi il gettito non è poi così certo, in terzo luogo perché c'è chi sostiene, ma naturalmente potete informarvi, ormai c'è internet anche per questo, c'è chi sostiene, magari ci sarà possibilità di parlarne in futuro se rientrerà nell'agenda politica, c'è chi sostiene che già l'IMU è una sorta di patrimoniale. Meglio pensare a tagliarle le tasse, magari appunto con tagli della spesa. Chissà se ci si riuscirà. Noi continuiamo a parlare di una tassa molto popolare, quasi quanto la patrimoniale. Oggi in Francia debutta, proposta, lo saprete ormai, nel 72 dal premio Nobel per l'economia James Tobin, la Tobin Tax prevede la tassazione delle transazioni sui mercati valutari, la destinazione degli introiti alle priorità della comunità internazionale. Questa è l'idea originaria. In Francia evidentemente è una valenza diversa, si pagherà lo 0,2% sulla compravendita di azioni di aziende francesi quotate in borsa e con una capitalizzazione di almeno 1 miliardo di euro. Il gettito stimato è di circa 1,6 miliardi di euro, ma ci sono stime molto più basse. Non sono tassate le vendite allo scoperto di CDS, ossia Credit Default Swaps, quella sorta di assicurazioni, quei derivati che sono di fatto le assicurazioni sul rischio di default di un paese o di un'azienda, e le transazioni ad alta frequenza. Saluto Mario Seminerio, economista e blogger ben noto in ambito economico, lo trovate su fastidio.net, scritto col PH, fastidio appunto. Buonasera Seminerio. Buonasera. Innanzitutto una sua opinione. Beh, mi pare che sia una manovra assolutamente simbolica, come nella migliore tradizione francese. Non è un caso che queste manovre francesi vanno al di là di quella che è la tradizione di destra o di sinistra, perché l'impianto originario era di Sarkozy, sia pure con un'aliquota dello 0,1% che Hollande ha portato allo 0,2%. Come ha già detto lei in sede di introduzione, è una imposta che produrrà una quantità di gettito assolutamente trascurabile. Tra l'altro a me risulta che il governo francese abbia... Mi scusi, la interrompo, le chiedo se ha l'auricolare di toglierlo e se ha la radio accesa di spegnerla, perché abbiamo un piccolo problema audio. Sì. Procedo subito, ecco. Mi scusi un attimo. Sì, intanto ci chiedete se abbiamo sentito qualcosa di un presunto prelievo forzoso in arrivo. Guardate, sono circolate voci e indiscrezioni di stampa sul rapporto finito sul tavolo del Ministero dell'Economia e realizzato da Ambrosetti House, o meglio coordinato da Ambrosetti The European House, nel quale si ipotizzava una qualche ipotesi di questo genere, che in realtà era una conversione di una parte dei patrimoni sopra una certa soglia in titoli di Stato sostanzialmente, però è una cosa che è assolutamente rimasta là. Allora Seminerio, eccoci qua, ci diceva sul gettito della Tobin Tax. Sì, il governo francese ha iscritto a bilancio 170 milioni per i 5 mesi restanti del 2012 e 500 milioni per il 2013. Queste sono stime statiche, cioè che non tengono conto delle reazioni all'imposizione dei soggetti che dovrebbero essere toccati da questa imposta, nel senso che molti trasmigreranno su intermediari esteri oppure useranno degli escamotage che non prevedono la compravendita, ad esempio usando o dei total return swap o dei contract for difference, quindi i famosi CFD, e alla fine poi ci saranno anche, a mio modo di vedere, come è già successo nel Regno Unito, delle esenzioni per i grandi intermediari finanziari. L'imposta rischia di gravare esclusivamente sul piccolissimo trading personale e quindi alla fine di produrre un gettito pressoché risibile. Questo naturalmente dal punto di vista del gettito. Poi c'è il discorso più generale, perché teoricamente questa doveva essere la merce di scambio europea. Uscimmo dal travagliato, e che lo è ancora in realtà, Consiglio europeo di un mese fa, dicendo Monti tiene duro, se volete, ha detto ai tedeschi, se volete la Tobin Tax dateci lo scudo antispread. Quindi teoricamente in Europa qualcosa di questo genere dovrà arrivare. Ma credo proprio di no, perché alla fine questa è stata merce di scambio su un terreno assolutamente simbolico populistico. Tutti sanno perfettamente che questa tassa non ha alcuna possibilità di passare e di produrre un gettito vero. Alla fine si è usata come merce di scambio in sede dei consigli, ma i primi a sapere che tutto questo era un bluff erano gli stessi attori politici che la stavano negoziando, il che rende tutto ancora più surreale per quanto riguarda il modo di gestire i vertici europei e le loro destinazioni, sostanzialmente. Ma secondo lei è una tassa che ha un qualche senso se applicata a livello globale, evidentemente? Se fosse applicata su scala planetaria, intendendo con planetario anche l'estremo oriente asiatico, il Far East e l'area del Golfo, quindi dove ci sono molti intermediari che operano in tutta tranquillità, probabilmente finirebbe col determinare una riduzione delle transazioni, soprattutto di quelle ad alta frequenza. Però sul piano allocativo, sul piano delle scelte dei grandi investitori, non credo che cambierebbe moltissimo. Questa è la solita araba fenice che per motivi, ripeto, simbolici, ideologici e ora anche demagogico-populistici, da dare in pasto all'opinione pubblica che è fortemente stressata in un momento di grave crisi come questo, si continua ad inseguire le ombre che non si concretizzeranno mai. Grazie a Mario Seminerio, economista, autore del blog fastidio.net, lo ricordiamo ancora una volta, è fastidio col PH, fastidio.net appunto, per essere stato con noi, per questa opinione anche piuttosto netta, come sempre. Buonasera. Buonasera. Quel che abbiamo detto è, ci dite mi scusi, ma la patrimoniale c'è già, l'IMU sulla seconda casa, la tassa sui conti, la tassa sul deposito, sui titoli, il bollo sulle auto di lusso, sulla barca, è quel che dicevamo, insomma, che una sorta di patrimoniale esiste già. Adesso sarebbe veramente il momento di dare un po' di respiro ai contribuenti nel loro complesso, non è che qua si difendono quelli che hanno tanti soldi. Oh, parliamo di tanti soldi a proposito, e sono quelli che sono girati intorno alla vicenda LIBOR e ora forse anche Euribor. Lo ricordiamo ancora una volta, il LIBOR è questo tasso di interesse attraverso il quale si determina a quale tasso di interesse le banche si prestano il denaro tra loro, ma in realtà fa da base a una serie enorme di transazioni finanziarie misurate, per quanto grossolanamente, in 350.000 miliardi di dollari all'anno. Vicende che sta seguendo e che seguiamo anche qua da Focus Economia con il collega del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi. Fabio, di nuovo buonasera. Buonasera. E benvenuto. Grazie. Allora, ieri lo accennavamo già, tra l'altro, c'è forse già si inizia a sentire l'impatto sulle banche dei conti, sui conti delle banche di queste vicende. Ieri hanno diffuso i risultati Deutsche Bank e UBS. In realtà in mezzo, se non sbaglio proprio per UBS, lo abbiamo detto ieri, c'è anche la quotazione di Facebook, che non è stata proprio questo successone straordinario, e però qualcosa si inizia a sentire, qualche accantonamento? Ma sì, dovrebbe stupire il contrario, cioè tutte le grandi banche non stanno andando bene, ma in termini relativi, cioè fanno meno profitti rispetto ai semestri precedenti. Deutsche Bank ha fatto un profittuone, Morgan Stanley ha dimezzato i profitti, JP Morgan ha avuto un buco di 6 miliardi sui derivati, ma nonostante questo ha chiuso con un utile di 5 miliardi. Questo per dire che cosa? Che in fondo le grandi banche di investimento vivono ancora, come dire, lo strascico della crisi finanziaria di Lehman. Hanno ancora bilancio, attività cosiddette tossiche, che smaltiscono lentamente trimestre su trimestre. Fabio, una certa impressione, perché con tutto il denaro che gli è stato iniettato, che è stato iniettato nel sistema bancario sia dalle banche centrali che dagli stessi governi. È proprio questo il paradosso, perché praticamente negli Stati Uniti e in Europa i salvataggi delle grandi banche americane e quelle anglosassone sono costate ai contribuenti e agli stati circa 3.000 miliardi di dollari dall'inizio della crisi Lehman. Quindi molte banche, penso alla Royal Bank of Scotland, è stata addirittura nazionalizzata, l'Olds è stato nazionalizzato, Dexia adesso è stata nazionalizzata, negli Stati Uniti un sacco di banche ha ricevuto aiuti pubblici perché di fatto stavano tutte fallendo. E quindi il tema si ripropone, cioè al centro dello scandalo Libor ci sono ancora queste grandi banche, cioè è una sorta di copione che non si interrompe mai. Prima Lehman con i mutui subprime, cioè mutui venduti a pioggia assumendo quindi un grosso rischio. Poi la questione dei derivati. Allora, i derivati, voi pensate, queste grandi banche per lo più fanno metà della loro attività con i derivati, che è una cifra spaventosa, parliamo di migliaia di miliardi in pancia a queste banche. Ovvio, non sono da demonizzare, il derivato spesso serve a coprire un rischio, però nel caso del Libor, ad esempio, vediamo che cos'è accaduto. Il Libor determina i tassi di interesse sui mutui, sui prestiti, ma è anche il sottostante dei derivati accesi. Cioè, praticamente, voi quando pagate un tasso variabile per un mutuo, pagate il Libor o l'Euribor più lo spread applicato alla banca. Che cosa succede? Che quando poi tu ti devi coprire, questo lo fanno le imprese e le piccole banche, infatti Berkshire, che è una piccola banca americana, ha fatto causa perché si è ritenuta danneggiata. In che senso? Che quando usi il derivato succede che l'impresa si vuole cautelare per tenere i tassi fissi e quindi compra, paga alla banca un tasso fisso e riceve in cambio un variabile. Se però io tengo basso il Libor, o il Libor, che si voglia dire, è ovvio che la banca dà meno soldi di quelli che spetterebbero all'impresa. È una sorta di ladrocinio, come dire, magari fatto a piccole dosi, quasi omeopatiche, ma su un volume di derivati che per il Libor, hai ricordato, su sono 350.000, sull'Euribor sono altri 200.000 miliardi. Abbiamo fatto un calcolo nei giorni scorsi. È di questo che ti volevo chiedere, tra l'altro. I numeri sono impressionanti, che se solo muovi di un punto base lo 0,01%, su una massa di 500.000 miliardi, di cui il variabile è il 70%, abbiamo calcolato che girano 35 miliardi di dollari. Ovvio, è anche vero che l'impresa che vede il Libor diminuire paga meno rata di prestito, però visto che i derivati sono 10 volte il volume sottostante, è ovvio che la banca tende a guadagnare sempre. Grazie a Fabio Paesi del Sole 24 Ore, a Pietro Lacorte in regia, a Mauro Del Corno in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.